ragioni sono penso evidenti. Noi siamo esposti contro la guerra in Medio Oriente, perché ora sembra, ne parlano tutti i giornali della guerra in Ucraina, però le guerre vanno avanti da decenni e in tutte le parti del mondo. Si parla addirittura di 49 conflitti e noi siamo contro tutte le guerre. E siamo per l'accoglienza dei profughi di tutte le guerre, non solo quelli ucraini. Niente da dire sul lavoro che si sta facendo, però noi vorremmo che il lavoro che si sta facendo con la popolazione ucraina che scappa dai bombardamenti si facesse con tutti quelli che scappano dalle guerre in Medio Oriente, citati lo Yemen, la Siria, tutti i conflitti che ci sono nel Corno d'Africa, ce n'è per i beati, purtroppo. E noi in porto abbiamo questo arrivo di questa nave Bahari che alimenta la guerra in Medio Oriente, parte dagli Stati Uniti, fa varie rotte, Canada, alle volte va in Spagna, anche se in Spagna ha trovato, anche in America, alla West Coast ha trovato gli ex combattenti, i reduci di guerra, hanno manifestato contro l'invio di armi, e però in Francia e anche in Spagna fortunatamente ci sono state delle, perché usano le linee commerciali per trasportare armi, proiettili, carri armati, elicotteri, tutto materiale bellico. Teoricamente per legge in Italia non potrebbe neanche transitare, e quindi l'Italia sta bypassando la sua costituzione con tutte le volte fanno una richiesta di autorizzazione all'UAMA, che è il Ministero dell'Interno, che gli dà la possibilità. Noi siamo contrari alla guerra in Ucraina, noi siamo con il popolo, con i poveri che subiscono queste aggressioni, bombardamenti. Oramai è chiaro che in Yemen dal 2015 al 2021 sono morti 85.000 bambini, cioè è una cosa che ci fa schifo, sì, schifo non lo accettiamo e non accettiamo neanche di vedere transitare o essere complici di una roba del genere che ci fa schifo. Qualche giorno fa i lavoratori di USB all'aeroporto civile di Pisa hanno bloccato appunto l'invio di armi. Cosa rispondete a quelli che sostengono che l'invio di armi serve per aiutare la resistenza ucraina? No, la pace non si fa con le armi, cioè sono due folli, non possiamo dare manforte a due folli, perché il Zelensky è un folle e Putin è un folle. Putin quello che fa lo sappiamo, sappiamo chi è Putin. Poi che tutti i politici italiani siano andati lì a banchettare e ce la volevano far apparire come uno stinco di santo, ma uno che è 22 anni che è presidente della Federazione Russa, cioè non è uno tranquillo. Il fatto che abbia spento internet a tutto il po' la popolazione, ma è paragonabile, come qualcuno dice giustamente, ma anche quell'altro non è un furbacchione, non è uno stinco di santo, cioè sono due folli e noi non possiamo dar retta a due folli. Sto qua inizia per la popolazione a combattere, le armi ai palestinesi non gliele abbiamo mandate, è quello che voglio dire. I palestinesi tirano le pietre, cerca di capire cosa voglio dire. E chi va a fare il mediatore? La Turchia, Erdogan e il primo ministro israeliano, cioè i turchi bombardano la Siria, cioè se siamo veramente alla follia pura. Quindi cioè, il nostro pensiero è, noi siamo con quelli che scappano da queste guerre, perché alla fine il popolo, la povera gente la subisce la guerra. I bambini che nascono tipo in Palestina, che vivono, nascono con la guerra e vivono la loro vita nella guerra. Io ho assistito alla scena, dal porto di Genova è passato un container pieno di proiettili di grosso calibro, passato da Genova, tempo 3-4 giorni che arrivasse in loco, e il giorno dopo hanno bombardato la striscia di Gaza, gli israeliani. È immediata la cosa, questi ordinano le armi, arrivano e in tempo zero le mettono in pratica e ammazzano poi alla fine chi? Che missili intelligenti, non ce l'è missili intelligenti. Quindi insomma voi dite di certo la guerra non la fate col nostro lavoro, voi vi rifiutate di guidare la guerra. Il nostro intento era mettere un granello al costo di rimetterci poi questioni di vita personale, perché noi siamo 6-7 indagati per l'associazione per delinquere, siamo tutti lavoratori censurati, ci sono rivenuti alle 5:30 di mattina in casa a fare una perquisizione sul posto di lavoro, vogliono incriminare per l'associazione per delinquere per aver detto no alla guerra. Io purtroppo sono fra i 5, però sono tranquillo, sono sereno con me stesso e con la mia coscienza. Continuo a pensare che è sbagliato. È sbagliato perché lo prevedono le leggi, la 185 del 90, ma ce n'è per così di legge e loro bypassano sempre queste leggi. Abbiamo mandato le armi in Ucraina, ma l'Italia ripudia la guerra, non può mandare le armi in Ucraina. Abbiamo della gente al governo che ce la mette insieme ai mani e ai capelli, fanno delle dichiarazioni che un ministro non può permettersi di dire che quello perché poi con quello ci devi andare a mediare. Finché lo dicevamo noi per la guerra in Medio Oriente, perché quelle armi che contestavamo noi era la guerra in Medio Oriente, ora la gente sta vivendo da vicino e chi ci ha messo alla gogna prima? Ah, benissimo, contro la guerra, ma è lavoro. Ma non è vero che è lavoro, perché è lo 0,01%, perché passa una nave su 10.000, che a noi non costerebbe niente a livello di lavoro, perché noi lavoriamo su tutt'altra merce e tutt'altre cose. Basterebbe veramente sacrificare veramente poco, se, ma le comprano da un'altra parte. Ho capito, va bene, non facciamolo noi. Cioè, rendiamogli talmente impossibile farle arrivare le armi, che gli costa talmente tanto, è che forse devono arrangiarsi qua, perché se a Genova non possono imbarcare, devono andare in un porto più lontano e devono fare, rendiamogliela impossibile.